Ma certo, devo dire, risposto in maniera pronta, insomma, ai fatti di sabato. Veramente, ma certo, è scioccata, è accaduto, non ci saremmo mai aspettati che proprio in una città accogliente, pacificata, gruppi di estrema destra non sono nemmeno organizzati, con sedi e strutture, maturasse quello che poi è maturato. Dopo il primo shock iniziale, ieri c'è stata una manifestazione spontanea lanciata appunto con un tantam di messaggi, che è stata molto partecipata e molto vera, appunto, perché è proprio fatta di pancia per voler subito uscire e stare a denunciare quanto è accaduto. E da lì, tra le iniziative lanciate per la prossima settimana, si è lanciata anche questa manifestazione per il prossimo 10 febbraio, che dovrà essere necessariamente una manifestazione di massa larga, perché quello che insomma è accaduto a Macerata non è soltanto una questione del nostro territorio, ma è un punto di non ritorno un po' per tutti, insomma, un po' per reagire, un po' per dare il giusto taglio a una vicenda che in verità la cui narrazione sta un po' deviando, no? Non si parla di fascismo, ma si parla di follia, si stanno cercando attenuanti, insomma, per quanto è accaduto. Invece quanto è accaduto non può avere attenuanti. È un fatto grave, è un fatto di terrorismo di stampo fascista. Le associazioni si stanno mobilitando, si stanno organizzando, insomma, per mettere in campo qualcosa, insomma, che tenga viva e reagisca, cioè che azioni di reazione a quanto è accaduto. Anche l'università, comunque il rettore, sta mandando dei comunicati in vista di una prossima mobilitazione, o comunque per l'organizzazione di una serie di iniziative di corpo docente e personale dell'università. Quindi questo è positivo. Dall'altra parte invece c'è il ventre molle della nostra società. Le reazioni sui social sono davvero scomposte, le reazioni, anche i commenti nei giornali locali sono a volte proprio, cioè non solo imbarazzanti, ma fanno proprio male per la violenza e per il tentativo proprio di rivendicazione del gesto che è stato fatto. Forza Nuova Marche ha immediatamente rivendicato in un certo senso l'azione Traini, e questo è un fatto una gravità inaudita, che alza tantissimo proprio anche il livello dello scontro sociale e dello scontro all'interno della nostra comunità. Da qua a sabato stiamo costruendo naturalmente una serie di incontri con tutte le realtà del territorio, insomma, per allargare il più possibile la chiamata alla mobilitazione. Naturalmente quello che è accaduto e anche a livello simbolico, quello che è accaduto non soltanto a livello materiale, ma anche a livello simbolico, ha una portata di una gravità tale da auspicare comunque una mobilitazione, diciamo, anche nazionale, se vogliamo. Cioè Macerata comunque deve diventare un simbolo e un momento di ripartenza per la costruzione anche di un discorso pubblico differente su antifascismo e antirazzismo. Quindi ci rivolgiamo un po' a tutti, la costruiamo sul locale, ma aspiriamo comunque a farla diventare un momento molto grande, molto largo e molto importante di mobilitazione. Vorremmo anche coinvolgere comunque la popolazione migrante per quanto possibile. I ragazzi sono molto spaventati da quanto è accaduto. Ci piacerebbe comunque che, insomma, che anche loro si facessero protagonisti, cioè sicuramente li coinvolgeremo nella costruzione di questa giornata.